Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, sono le 8:18 minuti. Guarda Oscar, io perdo pezzi, guarda. C'ho una cuffia che cade. Tu? Io c'ho un microfono, che c'ho un jack che va, no, va e viene. Però vabbè, sai, bisogna fare con quel che si può. Questo è il nostro motto, per così dire. Allora, trascorsi bene, sì. Ben ritrovato, sì. Ben ritrovato a chi ci ascolta. Insomma, non troppo ben ritrovati ai 12.000 rotti dipendenti di Alitalia. Del resto, questo è Faber, però, avete votato no. Leggo sui giornali che alcuni di voi, per esempio, no, sulla stampa, leggo un'intervista: meglio 1.200 euro al mese che 2.800 euro dai umiliati. Ma vedremo tra qualche mese se la pensate così. Comunque, oggi 26 aprile, San Cleto o Anacleto, terzo papa, quindi stiamo parlando sotto Tito Vespasiano. I cristiani non erano ancora perseguitati, ma inizierà subito dopo con Diocleziano. È il primo che mette una memoria, fa una specie di edicola sulla tomba di Pietro. E, oltre a questo, cosa dire di quello che avviene negli anni in questo 26 aprile? Beh, per dirne una, visto che ieri ci sono stati i più cortei di questo 25 aprile di cui si perde la memoria unitaria, un gran peccato secondo me, ma detto tutto questo, nel 1945, il 26 aprile, una tra le tante pagine che non si ricordano mai, a Padova ci furono scontri molto duri tra i partigiani e i civili e i fascisti e i tedeschi che erano ancora in città. Ma pensate al bilancio di vittime: 224 tra civili e partigiani morti e oltre 500 tra tedeschi e fascisti morti, per dare l'idea. Ecco, 26 aprile 1945. Nel 1986 Jorge Luis Borges, famosissimo letterato, poeta, scrittore meraviglioso argentino, sposa la sua segretaria di 38 anni più giovane, e nessuno lo dico apposta. E sposa la sua segretaria di 38 anni più giovane, Maria Kodama, e nessuno trova niente da ridire. Com'è che nessuno trova niente da ridire se un grande uomo sposa una di 38 anni più giovane, e invece Macron non può sposare come la ex mai? Prof. Perché questi maschietti ragionano sempre a modo loro. Su Trump, che sta con una bellissima donna, e ti lui dirò che è oggi è il compleanno di Melania Trump, tra l'altro. È il compleanno, vedi, 1970 nato. Ma prima ne discutevamo, perché ovviamente adesso parleremo di Alitalia, di lavoro, ma poi fuori onda parliamo delle cose vere che contano. No, scherzo. Di cui parla tutta la gente, certo. che vede Macron che sta con una donna che ha 26 anni più di lui. E prima, vedi, Oscar, un ascoltatore mi ha mandato un messaggio dicendo: ma insomma, come fai a non capire che un uomo che evidentemente cerca sempre la protezione materna anche nel suo rapporto affettivo, come fa a guidare poi con il polso una nazione, se è un uomo che cerca sempre l'affetto materno? Pensa che un mio amico psicoterapeuta sostiene al contrario, che questa stessa chiave è un messaggio molto rassicurante e positivo per milioni di donne, per milioni di persone, anche maschi, che non sopportano più la chiave del maschio alfa dominante che scopa le cantanti, le attrici, presidente, nottetempo con i servizi, capito? E poi schiaccia e dicono: no, questo è uno, al di là dei programmi, perché poi mica si vota solo per i programmi alla politica, questo bisogna saperlo. Lui appare più rassicurante per la sua incertezza, proprio per questa sua identità. E quindi vedi che uno stesso fatto può essere letto proprio... Ma al di là proprio... di questo, siccome tu lo sai... Può avere una doppia lettura. Vabbè, sì, con la vecchia professoressa, ma dai, dillo che sei... Invece che se Borghi sposa una di 38 anni e meno, il grande intellettuale, perché è maschio? Perdonami, ma è così, è così. Auguri Melania, tu sì che sopporti strali e frecce del mondo, questo è il punto. Sì, esatto. Allora, che dire, però, al di là di Macron, è il giorno almeno a giudicare dalle interviste di ministri del possibile nuovo prossimo funerale di Alitalia, cioè dopo il no del referendum da parte dei lavoratori, oggi a giudicare da tutti i giornali, Calenda, Del Rio, Poletti, interviste a dire basta, se qualcuno si sogna che dopo 7 miliardi e 400 milioni diamo ancora soldi pubblici, a parte un prestito ponte per salvare i voli, basta. Sai, 7,4 miliardi sono quelli che Mediobanca ha classificato come le perdite pubbliche a euro 2014 di Alitalia pubblica fino al 2007. Diciamo che ce ne sono altri 7 quasi di soldi pubblici dati tra i 3 miliardi del fallimento, costò 3 miliardi il fallimento tecnico dell'Alitalia pubblica, e gli aiuti poi dati tra cassa integrazione, 1 miliardo e 4 è costata la cassa integrazione di 7 anni generosissima agli 8 mila esuberi del 2008, perché a rilevare la CAI dei capitani coraggiosi 8 mila non ne prese, e poi ancora gli oneri che hanno pagato tutti i passeggeri con la maggiorazione del biglietto, i mancati introiti IVA, quindi insomma non sono solo 7 miliardi, diciamo oltre 12 miliardi. Ricordiamocelo bene, perché 12 miliardi più o meno ci è costata l'illusione che le compagnie stiano in piedi senza flotte coerenti, senza organici coerenti, senza guardare un mondo in cui il consolidamento del traffico aereo ha portato in 20 anni le grandi compagnie che sopravvivono in Europa a privatizzarsi, uno, due, a fondersi in gruppi in cui ci sono più compagnie tradizionali e insieme low cost per battere tutti i segmenti del mercato. Noi abbiamo privatizzato tardi e malissimo, ogni volta difendendo l'italianità. Il sindacato purtroppo è coerente, Alessandro. Nel 2007 bocciò Air France, che perché? Perché Air France voleva su 20, all'epoca erano 21.000 i dipendenti dell'Italia, e Air France, pensa, ne voleva solo 19.000, tutti insorsero, la CISL in testa all'epoca di Bonanni, l'italianità, basta quei francesi usurpatori che vogliono licenziare 2.000 persone. Nove mesi dopo arrivarono i capitani coraggiosi che ne presero 12.000, adesso zero. Come vedi, c'è una coerenza in queste battaglie, finisce sempre malissimo. Dopodiché finisce malissimo, poi esatto, perché la questione, io per esempio ho parlato a lungo con un caro amico che ha una fidanzata assistente di volo all'Italia, mi ha detto ha votato no, però giustamente uno dice ha votato no perché non si possono chiedere sacrifici sui lavoratori, il management no. Però... no, infatti la questione è, ma adesso se si ritrova con un posto di lavoro in meno, io capisco che l'alternativa è vabbè, allora cosa faccio, continuo a fare tra virgolette sacrifici? Però l'alternativa del perdere il posto di lavoro è un'alternativa concreta. Ma la loro alternativa è lo Stato ci salverà sotto elezioni. Ma io scommetto che adesso che si va al commissario pubblico, invece di pensare alla vendita e alla liquidazione, la politica sotto elezioni si scatenerà. Ricordo, però, ricordi il 2008? Come no, era proprio sotto elezioni. Però ricorda, caro Oscar, che se non hai visto Repubblica, Renzi, no, ma è un retroscena, cioè non ci sono dichiarazioni pubbliche. Ma pare che sia pronto a dire, lo dirà forse dal nuovo segretario del PD quando lo sarà, caro Gentiloni, bisogna fare tutto, mettere in campo tutte titolo le del opzioni. Messaggero, Renzi irritato contro l'esecutivo, bisogna fare tutto necessario. Ho capito, Renzi pensa di dover fare anche lui la parte elettorale di pagate voi italiani. Mettiamola chiara ai nostri ascoltatori: volete ripagare altri soldi per una compagnia che i politici e i sindacati si tengono in piedi in maniera incoerente con gli obiettivi di efficienza per stare lì e continuare a pagare, oppure no, perché dopo decenni abbiamo capito che anche basta. Telefonateci 800 24 0024, il caso all'Italia. Ma se volete telefonarci anche su Macron e la sua moglie un po' più âgée, per dire la vostra, dite anche la vostra, che poi è un modo per parlare della Francia. È uno dei dibattiti in Francia, sai che in Inghilterra la chiamano, sarà la Premier Dame o la First Cougar. Vabbè, questa è una cosa. Sa che i britannici con i francesi non si pigliano moltissimo. Anche noi italiani. Moltissimo, però. Questo è. Devo parlare del merito della May, allora non ho capito. Ma insomma, perché sempre questa cosa? C'è poco da fare. Perché il cliché dominante è il maschio alfa? È il maschio alfa, ma sì, quello che tiene la moglie a non rompere le scatole e poi si fa accompagnare dalla polizia di notte, dall'attricetta o dalla cantante. Questo è. Noi rimpiangiamo questa roba qua, da Mitterrand a Giscard, a Chirac, a Hollande. È sempre quello il cliché che si rimpiange. Una roba abbastanza ridicola, se posso dire le cose come stanno, cari maschietti in ascolto. Comunque, chiamateci su questi temi. Però, Oscar, noi abbiamo chiamato anche un esponente del Movimento 5 Stelle che fa parte, tra l'altro, della Commissione Lavoro. Perché è la settimana in cui io ho voluto applicare la massima grillina, perché loro vogliono lavorare 4 giorni a settimana, ne lavoro 3. Ti ha ricordato Meazza con questa cosa, oggi è mercoledì. Esatto, no, non è lunedì, primo giorno di lavoro alla settimana. No, si scherza ovviamente, ma vogliamo salutare Claudio Cominardi del Movimento 5 Stelle. Buongiorno onorevole Cominardi, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma allora, ma è vera questa cosa che vorreste, secondo il mantra, lavorare meno, lavorare tutti, la settimana addirittura corta di 4 giorni? Ma questo forse è niente, il problema è a parità di salario. A parità di salario, questa sì. Cominardi. Allora, questa è una delle proposte che è uscita dal programma di governo del Movimento 5 Stelle, che è stato consultato in rete, quindi è quello che hanno votato gli iscritti del Movimento 5 Stelle. Ma noi vogliamo applicare quello che è un principio matematico semplicissimo. Per esempio, in Francia le 35 ore settimane, che peraltro sono costate solo 1 miliardo di euro, quando noi in Italia abbiamo spesi 20 in 3 anni per il Jobs Act, che non hanno portato alcun beneficio in termini occupazionali, potrebbe comportare un aumento della produttività per le aziende, perché è dimostrato che se si lavorano meno ore aumenta la motivazione, aumenta la soddisfazione personale, diminuiscono le malattie, gli infortuni, gli errori durante... Cioè qui Oscar Giannino, mi faccio terminare un secondo, si riducono i costi dei sussidi di disoccupazione, utilizzo dei ammortizzatori sociali e quant'altro, quindi i benefici. Esatto, no, è chiaro. Oscar Giannino, che è notoriamente un workaholic, si direbbe, negli Stati Uniti sbuffava, ma come lavorare meno? Non c'è tempo e non c'è modo, però richiamo gli ascoltatori, lei dice, è dimostrato. Guardi, ci sono tonnellate di studi su cos'è lo di 35 ore, hanno determinato in Francia, è dimostrato, mi permetto di dire, che ci sarebbe bisogno di mezz'ora di confronto solo su questo punto, perché lavorare meno per le imprese, ma per il prodotto globale, siccome l'importo per il lordo non si diminuisce in termini proporzionali, è più caro. Allora, uno può dire quello che vuole, certo, diminuisce il tasso di basse malattie, certo, perché è chiaro, però che questo crei automaticamente i posti di lavoro promessi equivalenti alla giornata in meno che si lavora? No, si vede che non è così, perché ovviamente non è così, il costo marginale non è comparabile e così via. Però siccome sono argomenti un po' tecnici, io mi limito a dire a chi ascolta, lei dice che è dimostrato, io dico che potrei in mezz'ora semplicemente sottoporre agli ascoltatori tonnellate di conclusioni diverse, però basta saperlo. È una visione generale del lavoro più che la convenienza, perché la convenienza è più caro, questo è il punto. Però la visione generale è quella di lavorare meno, questo è il concetto. Ma perché lavorare meno per lavorare tutti, Cominardi? Ci spieghi questa? No, io voglio permettermi di fare giusto uno studio comparato. Mentre in Italia il PIL pro capita è di circa 35.800 dollari e la disoccupazione è al 12%, e un occupato lavora mediamente 1.725 ore l'anno, in Francia il PIL pro capita è di 42.700 dollari, la disoccupazione è al 10% e un occupato lavora 1.482 ore, in Germania ne lavora 1.371. Scusi, Cominardi, no, io non lo voglio. Questa è una dollari. Si chiama, in termini tecnici, si chiama correlazione spuria, perché non è il numero di ore a determinare la partecipazione al mercato del lavoro, ma la produttività multifattoriale del capitale, degli intangible e così via. Invece, detta così, sembra che basta lavorare meno ore perché si innalzi la partecipazione al mercato del lavoro e si innalzi il reddito pro capita. È una correlazione spuria, si chiama così. Però ripeto, io non voglio obiettare, io capisco che la vostra è una visione politica e d'ora in poi mi taccio, è tutto qua. Se mi posso permettere, allora qualcuno mi deve spiegare perché tutta Europa, tutti i paesi del nord Europa lavorano mediamente molto meno dei paesi del Mediterraneo. E glielo spiego io, perché noi abbiamo, rispetto alla Germania, per esempio, 20 punti di partecipazione al mercato del lavoro in meno, e questo spiega purtroppo troppo, perché lavorando in molti meno giovani, molti meno anche delle corti centrali, in questo ha ragione lei, l'effetto del Jobs Act è stato abbastanza disastroso, oltretutto per quello che è costato, poiché partecipiamo in molti meno al mercato lavoro, oimè, lavoriamo di più mediamente a testa in termini orari, mensili e giorni annuali. Questo è verissimo, ma il problema è che siamo in pochi a lavorare, questa è la questione. Però, ripeto, è lei che deve parlare, io d'ora in poi non rispondo neanche se mi chiama in causa perché ho parlato troppo. Sì, sì, ma difatti, guarda, nelle ultime riforme che sono state fatte del lavoro, portando la flessibilità, perché dicendo che era quella la formula esatta per riuscire ad aumentare l'occupazione, abbiamo visto che nel 2001, quando c'era Berlusconi al governo e il ministro del lavoro era un certo Maroni, l'occupazione in Italia era 57,1%, 57,1%. Sono passati 16 anni, oggi abbiamo Gentiloni e la percentuale degli occupati è praticamente identica. Il mercato è il più flessibile in assoluto. I dati OCSE dicevano che già pre-Jobs Act l'Italia era il paese più flessibile di Germania, Francia, Olanda e Belgio. Sappiamo anche che hanno questo fattore che è quello del numero di ore che ogni lavoratore fa in un anno, è estremamente inferiore a quello dei paesi, delle economie più forti del nostro. Io non capisco perché non si può fare questo tentativo, per cui molti non sanno che se ognuno dei 23 milioni di lavoratori occupati italiani lavorasse le stesse ore del suo collega francese, ci sarebbe lavoro per 4,4 milioni di disoccupati, mediamente dico, perché ovviamente non è un calcolo matematico preciso, e sì, se lavorasse con lo stesso orario dei tedeschi sarebbero addirittura 6,6 milioni. È questo il punto che viene un po' contestato di questa teoria, che è poi la teoria del sociologo De Masi, se non sbaglio, no? L'idea che lavorando di meno si sbloccherebbero posti di lavoro per altre persone. Questo è il punto contestato. Posso farle un esempio? Io ho degli amici che hanno una laurea in ingegneria, che hanno dei master, che hanno tutta una serie di attitudini per poter entrare nel mercato del lavoro, ma non riescono, forse anche perché tra i fattori che disincentivano l'entrata nel mercato del lavoro dei ragazzi, noi abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile che sfiora il 40%, ma se parliamo di disoccupazione reale in realtà è molto più elevata, e nel contempo abbiamo tra la più alta età pensionabile. Detassiamo gli straordinari, abbiamo gente, soprattutto i livelli dirigenziali, che lavorano più ore del dovuto, andiamo ancora nella solita Nord Europa che dovremmo prendere ad esame spesso, dove in realtà spesso i dirigenti non si fermano anche gratuitamente, per così dire, sul posto di lavoro anche oltre le 10 ore, e questo ruba il posto a tutte queste persone. Ma è questo il punto, ma perché secondo lei un'azienda facendo lavorare massimo 8 ore, anche chi ne vuole lavorare 10, assumerebbe un'altra persona al suo posto? Assolutamente sì, può capitare, perché non è matematico, ovviamente, però nel momento in cui ovviamente ci sono meno ore che vengono fatte, quindi quelle ore hanno un senso nel contesto produttivo, è chiaro che qualcuno deve compensare quella parte di mancato lavoro, è chiaro, è evidente a tutti. Ovviamente c'è un tema poi legato ai salari, perché i salari ovviamente non è che possono abbattere, e non deve nemmeno comportare un costo troppo eccessivo per le imprese, però sicuramente, come dicevo prima, ci sono tutta una serie di benefici che per le imprese non potrebbero essere positivi. Vabbè, diciamo, questa è una delle proposte che viene fatta. Non lo so, Cominardi, nel salutarla, se è sulla questione Alitalia, visto che lei fa parte della Commissione del Lavoro, avete una posizione, lei è una posizione, visto che... Io posso dire che avevano visto però la crisi in arrivo, però, perché l'altra parte delle proposte 5 Stelle sul lavoro, disintermediare i sindacati, mettere un limite alle carriere improprie dei sindacalisti, eccetera eccetera, io ho scritto subito un editoriale: 5 Stelle vede che c'è un problema, e prima di questo referendum che si capiva avrebbe sottolineato e fatto esplodere la mancanza di rappresentatività del sindacato. È un po' curiosa questa cosa, perché ultimamente, almeno giudicare dai giornali, ve la prendete con i sindacati? No, in realtà la nostra non è una disintermediazione del sindacato in senso assoluto, assolutamente. Noi vogliamo che il sindacato torni a fare quello che faceva un tempo, cioè tutelare la parte dei lavoratori, perché nasce per quello. C'è un problema di rappresentanza dei sindacati. Fanno altro, si occupano dei CAF, si occupano degli enti bilaterali, si occupano della formazione, della gestione dei fondi pensione, e sempre meno della tutela dei lavoratori. Faccio anche un esempio. Però perché anche i sindacalisti non possono fare politica? C'è anche questa che si è letta. Perché non è vero che non possono fare politica, però a noi pare quanto strano che spesso e volentieri dirigenti sindacali dalla sera alla mattina passano o nei CDA di qualche azienda o qualche incarico dirigenziale in qualche importante società, piuttosto che magari a diventare anche dirigente politico o parlamentare oppure rappresentante del governo. Basta vedere anche la commissione lavoro stessa, che è stracolma di sindacalisti che magari prima difendevano i diritti dei lavoratori, poi votano il Jobs Act, che è stato un massacro da quel punto di vista. E quindi per prevedere un periodo di decantazione di qualche anno credo che sia quantomeno di buon senso. Non si tratta di non ce la si fa con i magistrati, ma con i sindacati, con i sindacalisti sì, insomma. Noi abbiamo il dovere di provarci. Ed è stata una cosa che è stata molto apprezzata da chi ha votato queste proposte. Va bene, dai, noi parleremo di Alitalia adesso, Oscar. Non so se Cominardi avete qualcosa sul tema Alitalia di posizione. Comunque, insomma, noi ne parleremo tra un attimo dopo. Abbiamo la pubblicità. Anche ascoltatori che sono lì. Come no, avremo anche Marco Bentivogli della Film CISL anche su questo tema. Cominardi, la ringraziamo. Andiamo un attimo in pubblicità. Tanti ascoltatori anche in arrivo sul tema Alitalia, immagino, è quello più caldo. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora Oscar, 8:40 minuti. Da dove iniziamo? Luigi da Vicenza? Cominciamo con Eccoci Luigi. Sì, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono un assistente di volo per una compagnia aerea in Italia. Ho 48 anni. Non si dice però mai la verità su quello che incide, ad esempio, lo stipendio del personale navigante sui costi di una compagnia aerea, che è verificato che è l'8%, per cui se i colleghi all'Italia andassero a lavorare gratis, domani la compagnia risparmierebbe l'8%, per cui di cosa stiamo parlando? No, guardi, cioè, Luigi, se uno prende ogni voce di costo così, non va da nessuna parte, perché per esempio il carburante, diciamo che all'Italia ha attualmente ogni mese 220 milioni di spese fisse tra personale, carburante, i diritti aeroportuali, la manutenzione eccetera eccetera, questi sono gli ultimi dati che abbiamo, no? Allora, il carburante, uno può dire, basta non pagare il carburante, certo, la compagnia non funziona, i diritti li devi pagare perché sennò le società aeroportuali non ti danno i servizi e così via, quindi in un'azienda si ragiona sui costi sui cui si può operare, che sono quelli che dipendono dalla compagnia, non quelli esogeni di mercato. Purtroppo questa è una logica, altrimenti si chiude, molto semplice, e questa è la cosa che in Italia non si riesce mai a capire, perché poi alla fine io non ce l'ho con i dipendenti, sono i dipendenti che pagano, ha ragione lei, sono i manager che sbagliano i piani, io su questo voglio essere rigoroso, i piani di CAI che noi abbiamo coperto di soldi privati dal 2008, abbiamo coperto i soldi come contribuenti e come governo, non funzionava, quindi io devo ragionare lei in questo, però non nel fatto che sui costo sul costo complessivo dei dipendenti non bisogna intervenire, perché è una delle poche voci purtroppo su cui una compagnia deve... se lei va a togliere l'8% dal buco enorme che c'è, non toglie niente. Sono d'accordo che non risolvi se non c'hai la flotta e il margine sul lungo raggio. Bisogna che il governo italiano la smetta di aiutare Ryanair dando finanziamenti sotto banco e faccia le stesse regole per tutti. Luigi, non è il governo ad aiutare Ryanair, ma le società che gestiscono gli aeroporti, capita in tutto il mondo. Mi dispiace doverle dire che, siccome se lei lavora nel settore aereo, il settore aereo in termini di traffico di passeggeri italiano è esploso positivamente in questi anni, e Alitalia ha perso la quota, non è che noi possiamo prendere a calci chi fa viaggiare, Alitalia fa viaggiare il 18% dei passeggeri, lei mi dice prendiamo a calci gli altri, no, perché gli italiani viaggiano al 78% con gli aerei degli altri. Ok, lei ha perfettamente ragione, ma io voglio ricordare anche a tutti quanti che il personale navigante, ad esempio, ha 10 anni di aspettativa di vita minore rispetto a una persona normale che fa l'impiegato, e questa è una cosa. Questo io vale per tutte le compagnie, però. Per tutte le compagnie. Io ho 48 anni, lavoro da 22 anni e guadagno meno di 2.000 euro al mese. Certe volte sto in aereo 36 ore consecutive, le mitiche soste, la mitica vita dell'assistente di volo, no, del pilota, non c'è, non c'è più. Io quando faccio 12 ore di volo, mi fermo 24 ore, dormo dall'altra parte del mondo e torno a casa, e per meno di 2000 euro al mese. No, no, ma su questo non si discute, no, su questo non si discute. E non ci sono sabati, non ci sono domeniche, non ci sono vacanze, non c'è, non c'è praticamente niente. Ma su questo, Luigi, nessuno dice che il ruolo è un ruolo da privilegiato, nessuno. Il popolo medio dice: questi privilegiati di Alitalia sempre in vacanza con stipendi milionari. Non è vero, si guadagna come si guadagna da qualunque altra parte ormai. Con 10 anni di aspettativa su questa ragione non è però la Luigi, vita del che sottinteso sia ci salvi lo Stato mentre in altre imprese private lo Stato non salva. Questo è il punto di fondo, non è che ce lo inventiamo noi, noi andiamo a fare le interviste e sui giornali trova dichiarazioni di colleghi sindacalisti che hanno chiesto no, che dicono beh, lo Stato ha salvato l'Ilva, salvi anche questo, e sa, le imprese metalmeccaniche non funziona così. Sentiamo Sandro, poi dobbiamo dare la voce anche a un altro ospite che ci ha raggiunto. Sandro, buongiorno, da buongiorno Roma. Buongiorno a tutti, guardi, io mi chiamo Sandro, ma voglio dirlo, io mi chiamo Sandro De Martinis, perché non ho paura di nascondere il mio cognome. Sì. Dunque, io ho lavorato in Alitalia per 21 anni. A 48 anni, esattamente 20 anni fa, perché oggi ne ho 68, a 48 anni mi hanno detto: te ne devi andare, devi darci le dimissioni, perché se no noi stiamo in crisi. E questo qui l'hanno fatto a 48 anni, io parlo 5 lingue compreso l'arabo. La professionalità non la pagano. Io vi voglio dire una cosa, sento dire delle cose che a me fanno veramente obbrobrio. Perché non ho mai sentito dire i soldi che sono stati dati al signor Cimoli, i soldi che sono stati dati al signor Nordio. Vorrei sapere oggi il signor Montezemolo che cosa non prende. Perché qui viene fatto un ricatto sempre sulle persone che sono le più deboli, che sono le persone che stanno lavorando, e gli si dice: se voi non fate altri sacrifici perdete il posto di lavoro. Allora gli diciamo a qualcuno: guardi, oggi non ti mangi più una fetta di carne, ti devi mangiare un cucchiaio di riso come si mangia in India. Vogliamo fare questi di discorsi? Sandro, se senta, Unicredit ha perso mezzo miliardo in 3 anni, è poco? Mezzo miliardo ha perso. Unicredit è una banca, lei dirà chi se ne frega di una banca. Mezzo miliardo. No. Guardi, senta, io sono una persona adulta, sono una persona seria, io non dico mai chi se ne frega. Io vorrei sapere una cosa però. Quando a delle persone vengono chiesti altri sacrifici, lei mi deve dire di sua coscienza questo, se a delle persone lei gli chiede altri sacrifici, ma non gli prospetta una soluzione vera, una soluzione di un qualche cosa, cioè delle persone che sappiano fare la loro professionalità, perché lei non mi può prendere per direzioni politiche delle persone che non sanno gestire un certo tipo di lavoro e metterle a gestirlo. Questo io, voi dovreste far capire anche queste cose. Sì, ma guardi Sandro, è il motivo per cui molti lavoratori hanno votato no. No, certo. È il motivo per cui dire basta chiedere ulteriori sacrifici ai lavoratori che non sono, come ci ha detto l'ascoltatore prima, come vengono dipinti, dei lavoratori privilegiati che vanno in vacanza, no? Principeschi, che viaggiano molto spesso. E quindi molti lavoratori hanno detto no. Perché certo, ora l'aspettativa è il rischio che anche perdere non solo quei sacrifici ma tutto il posto di lavoro. Cioè, Sandro, siccome è evidente a chi si occupa del settore che questo piano serviva comunque a cedere, perché i soci non ci credevano più e non ce l'hanno un piano, non hanno una flotta per reggersi, allora era meglio farlo in continuità e con 900 milioni di finanza nuova da parte dei soci, o e invece meglio per chi ci lavora adesso farlo col commissario e la prospettiva della liquidazione? È tutta lì la domanda, perché sul resto che i piani fossero sbagliati non hanno retto, ha ragione lei come l'ascoltatore precedente. Però io Oscar capisco anche il lavoratore che dice no, siccome tanto sul management vedo che non c'è nulla, rimane questo, rimane un management che non ha dato un risanamento all'Italia, tra 2 anni mi richiedono ulteriori 7% di sacrifici. Sì, e invece però la richiesta è adesso ci pensa il contribuente, io penso che il governo non possa, poi la politica si reinventerà, però quando l'ha fatto in passato, io oggi ho scritto 2 pagine al Messaggero su questo, andatevi a vedere tutte le volte che la politica vi ha promesso di salvarvi, che cosa cazzo è costato ed è stato peggio dopo, per tutti, anche per i dipendenti. Però con noi c'è Marco Bentivogli, segretario generale FIM CISL, buongiorno Bentivogli, ben ritrovato. Buongiorno. In realtà noi insomma volevamo parlare, abbiamo chiamata per la questione delle proposte anche grilline, antisindacali, disintermediare i sindacati, però una cosa su Alitalia intanto ce la deve dire, anche insomma, se non è della categoria, non mettiamolo in imbarazzo. No, certo. Però no, insomma, ecco, vorrei evitare che si dica che mi occupo di altre categorie. No. Ecco. Però i lavoratori che dicono basta sacrifici, ma ora rischiano di perdere il posto di lavoro. Certo, messa così è un ricatto mica male, però. Ma io dico solo che anche nelle vertenze della siderurgia di cui mi sono occupato direttamente c'era chi sosteneva gli accordi, le mediazioni, le soluzioni, e c'era una piccola parte, per fortuna, che invocava le nazionalizzazioni. Ecco, per fortuna siamo sempre riusciti a tenere in minoranza questa parte di penaltristi. C'è di fronte alla vicenda d'Italia quella di Meridiana andava malissimo, gli aerei erano tra i più vecchi delle flotte italiane, i salari sono stati tagliati del 30% e il sacrificio occupazionale è stato notevole. Probabilmente sono un pessimo sindacalista, perché le acciaierie speciali Terni, la Whirlpool e tantissime altre aziende le abbiamo sacrificate, ma le abbiamo rilanciate con un taglio sui contratti aziendali temporaneo in vista di nuovi investimenti e anche con riduzioni del personale. C'è un'idea sempre iperbenaltrista che è molto pericolosa per chi ha uno spirito di concretezza sindacale, e quelli che sostengono il no nei referendum il giorno dopo dovrebbero aver consegnata la palla del gioco, e invece spariscono. Questo è il guaio. Il guaio è questo. Chi dice la nazionalizzazione e fa votare i lavoratori credendo che non siamo all'ultimatum vero, ma siamo sempre all'ennesimo penultimatum. Il giorno dopo è chiaro, dovrebbero in qualche modo consegnare il pallino del gioco agli altri. No, capito. Ma invece l'altra via è quella della trattativa. Se io accetto per un certo periodo di tempo sui salari, sull'organizzazione del lavoro, questo e questo, in cambio verifichiamo insieme al tavolo come migliora e quanto migliora e dove andiamo. Questo è il modo in cui, ma non è che solo la Germania, perché io dico la Germania, è il modo in cui le aziende si salvano, l'occupazione si salva, si riassorbono poi i giovani e si migliora il capitale umano, invece che tutto o niente. Finisce a niente in Italia, però questa è la mia opinione. Però Bentivoglio invece sul tema quello del Movimento 5 Stelle, intanto disintermediare il sindacato, vi spaventa questo tipo di... ci ha spiegato prima Cominardi che non è proprio disintermediare, ma insomma i sindacati tornino a fare la tutela dei lavoratori, non i CAF, non altre cose, non... No, vorrei fare prima una battuta ancora sull'argomento precedente, sul fatto che i top manager hanno spesso arricchimenti inversamente proporzionali ai risultati, visto che noi siamo quella parte del sindacato che sostiene la contrattazione aziendale di produttività, per cui correlata ai risultati, questo è molto vero, però è troppo facile parlare di Simoli, Sempella, che sono stati dei disastri totali. Perché non parliamo di Fiat? In Fiat, chi è che si ricorda i nomi di chi c'è dei sei amministratori delegati cambiati prima di Marchionne? Beh, quelli hanno fatto fallire la Fiat e hanno fatto disastri tecnici, fallimenti tecnici totali, e non ne parla nessuno. E Marchionne, che ha risanato l'impresa grazie agli accordi con noi, invece è stato oggetto di una campagna per i soldi, più ovvio, come si sia vista da parte di tutta la stampa italiana. Probabilmente l'Italia non è che vuole tanto questa meritocrazia anche nei top manager. Comunque, per ricollegarmi alla questione dei 5 Stelle, ma non è che abbiamo tanta paura di questa idea di disintermediazione, anche perché i 5 Stelle non hanno il monopolio di questa malsana idea. Anche le forze politiche tradizionali hanno spesso questa tentazione: o vogliono un sindacato collaterale asservito, o vogliono un sindacato innocuo, simbolico, come spesso è il sindacato antagonista. Il problema vero è che io ho salutato molto positivamente che i 5 Stelle cercassero al proprio interno un'idea sul lavoro. Un partito così grande non può annaspare nel buio. Il problema è che c'è una superficialità disarmante. Anche la discussione sulla riduzione dell'orario di lavoro fatta così è ridicola. L'orario di lavoro mediamente nei contratti collettivi è dei 40 ore, e anche l'orario legale italiano è appunto di 40 ore. Il problema è che l'orario di fatto dei lavoratori è molto più alto quando l'azienda va bene. Esatto. Allora, immaginare che ci siano ricette salvifiche per puntare sul riduzione dell'orario di lavoro è ridicolo. Anche l'idea, lavorare meno in modo da sbloccare altri posti di lavoro. Ma purtroppo non c'è questo trade-off, scambio, non c'è, ma magari fosse possibile. Noi abbiamo fatto tantissime esperienze di questo tipo. Il tema vero è che bisogna centrare gli obiettivi di produttività. Io sono, siccome la FIM, la mia organizzazione, è stata la prima, nessuno ricorda, ma all'inizio degli anni 80 noi sostenevamo lavorare 35 ore per vivere meglio, non per lavorare tutti. Ma oggi il tema, non abbiamo centrato quell'obiettivo. In Francia non è un buon esempio, perché sebbene i primi investimenti diretti esteri andarono bene, successivamente le 35 ore è rimasto solo il simbolo. Allora io credo invece che lavorando di più sulle competenze delle persone, sulle nuove tecnologie, quelle di cui in Italia si esalta la tecnofobia, invece ci sia la possibilità di conciliare gli orari di lavoro con la vita delle persone. Ma questo significa, lo dicevate voi da studio, riprogettare una visione di impresa e di lavoro diverso. C'è un'altra cosa, ecco, quello che mi spaventa invece del Movimento 5 Stelle, e spero che riflettano di più, intanto considerare come la formazione, i fondi integrativi, delle cose da poco, mi sembra assolutamente pericoloso. Però quello che mi preoccupa è che ci sia questo cerchio bottismo che non ha nulla di nuovo. Mi ricorda i partiti tradizionali. Dire all'officina H di Ivrea siamo per la gig economy e la sharing economy, e poi a Roma sostenere la parte più corporativa dei tassisti è tipico del cerchio bottismo della Prima Repubblica. Allora, si fermi qui però, Bentivoglio, perché siamo già in sigla di chiusura. Abbiamo messo tanti molto Bentivoglio, elementi. Segretario generale FIM CISL. Va bene, dai, ci fermiamo qui per oggi. Allora, stava scrivendo il testo del messaggio a Melania. Scriverà il messaggio a Melania, Alessandro, per tutti noi ascoltatori. Lo scriverà lui, nostro leader. Happy birthday. Happy birthday, Melania. Da domani.